Ci ha appena telefonato Lorenzo Valera, che era alla testa del corteo delle tute bianche, ha detto che c'era una carica, però devono aver sparato i lacrimogeni. Lui stava tossendo, si sposterà un po' in là e poi ci racconterà meglio. Ci pronto, senti? Ecco, mi trovo una strada parallela al corteo delle tute bianche, si corre, si scappa perché c'è stato improvviso rumore dei lacrimogeni sparati, sono dei blind dei cellulari dei carabinieri che sono andati a bloccare il corteo delle tute bianche, mi sembra di capire. Io sono alla via parallela, tutti sono messi a correre per scappare, è una via laterale, quindi riesco a vedere il corteo, riesco a vedere il camion dal quale si partiscono gli ordini, hanno messo i tassi, sta facendo un po' di retro marcia, adesso avanzano mentre piovono lacrimogeni. Prova a avvicinarmi ancora di più. Angelo, ok, resta in linea contemporaneamente dall'altra parte sempre del corto delle tute bianche, c'è Piero Bosio, pronto? Sì, sono il pilota dell'America, qua a 500 metri dalle tute bianche, è un gruppo di 500 manifestanti, è stato caricato qualche secondo fa dai carabinieri, hanno sparato per velocità e la stessa duomo ci hanno inseguito per circa 50 metri, disperdendo le persone verso il ponte della ferrovia, molti hanno fatto sottopasso e stanno cercando rifugio verso il lato opposto della ferrovia, quindi dal lato opposto delle tute bianche. Un attimo, chiedo, c'è una notizia in questo momento, sento un po' di eco, c'è una notizia che arriva in questo momento dalle agenzie, gli anarchici, leggo testualmente, gli anarchici hanno attaccato il carcere di Marassi, vengono lanciate bottiglie Molotov e sassi, sono state infrante le finestre degli uffici al primo piano. Questa è un'agenzia ANSA di pochi istanti fa. Che passa con la calle? In prossimità della stazione di Brignole è sbucato da un vicolo laterale un grande numero di poliziotti in assetto antisommossa e hanno fatto partire una carica molto molto rapida e molto violenta, innanzitutto contro i giornalisti che stavano alla testa del corteo, hanno sparato fumogeni addosso praticamente ai giornalisti, c'è stata una fuga, è impossibile vedere cosa succede adesso alla testa del corteo. Vedo che però indietreggiano a una velocità molto molto sostenuta, stanno sparando lacrimogeni assolutamente dal testa uomo, stanno sparando su tutti indistintamente, li sentite? Ve ne è sfidato uno proprio di fronte alla testa, sono tantissimi, i manifestanti stanno ripiegando nelle vie tutto intorno limitrofe, stanno cercando di fare delle barriere, sentite i rumori? Sono dei cassonetti che vengono spostati per fare delle barricate, adesso li vedo i poliziotti, sono in fondo proprio a questa via dove siamo. Ma credo che in tutte le vie intorno a questa stia succedendo una cosa simile. Vedere è difficile, respirare ovviamente anche. È bastata una carica, una sola carica della polizia, molto molto violenta, ripeto, per disperdere completamente tutto l'apparato che era stato costruito per cercare di bloccare. Mi trovo in piazza Alimonda e qui è stato messo all'inizio, erano stati messi dei contenitori per fare delle barricate, piovevano i lacrimogeni anche qui, mentre anche da questa piazza vedo sulla mia destra, se riesce ad attraverso una via a parte del corteo qualcuno si arrampica sulla masticciata, tutti chiaramente, tutti stiamo usando acqua, pregando sugli occhi, si ripetono fughe vertiginose, velocissime. Quando si sparano queste lacrimogeni è anche pericolose perché si crea chiaramente un po' di panico. Siamo qua davanti a una chiesa, questa, con una palma nel centro di questo piazza, e proprio qui continuano a piovere i lacrimogeni. L'impressione che ho in questo momento è che adesso metta una certa distanza fra sé e la polizia. Molte persone stiano cercando di riorganizzarsi e di rimettere insieme quei gruppi che avevano deciso di fare. Per esempio il gruppo antifumogeni doveva occuparsi di raccogliere i fumogeni da terra e lanciarli altrove. In questo momento li mettono nei cassonetti dell'immondizia. Quindi c'è il tentativo comunque di riorganizzare qualcosa, di rimettersi insieme una volta ripresi dallo shock iniziale di una carica di questo tipo. Sono sono le 15:12, abbiamo ancora poco più di un quarto d'ora per quanto riguarda questa parte della diretta di Popolare Network. Se... Sì. Devo aggiungere una cosa, la polizia adesso in questo momento sta indietreggiando perché si sono raccolti da terra tanti oggetti da lanciare, tante bottiglie, c'è una grandissima rabbia da parte dei manifestanti, si vedono scene, tipo cartelli stradali diversi dalla loro sede, vasi dei fiori spaccati, fatti a pezzi, pur di trovare qualcosa da lanciare si lancia di tutto contro la polizia, la quale polizia in questo momento ha cominciato invece a fare una carica disordinata, uomo a uomo stanno rincorrendo i manifestanti. Di fronte a questo attacco, dal primo accenno di indietreggiamento, ecco, stanno arrivando personalmente con i manganelli, stanno inseguendo un anziano vestito da pulcinella e lo stanno manganellando. Non riescono assolutamente a contenere questa parte di corteo che si è riorganizzata in frettissima e sta lanciando tutto quello che trova per terra. Bottiglie soprattutto, perché alcuni contenitori del vetro sono stati rovesciati e quindi le bottiglie vengono lanciate addosso. I celerini rilanciano le cose che gli vengono lanciate, la carica partita poco fa è stata bloccata subito dal funzionario, il quale evidentemente si è reso conto della pericolosità della situazione. Stanno indietreggiando di nuovo di fronte alla selva di oggetti che vengono lanciati. Scappati verso una via laterale, verso sulla sinistra rispetto alla piazza dove vi parlavo prima, c'è stata una carica da parte dei carabinieri, hanno corso velocemente contro i manifestanti, gran fuggire indietro, adesso sono tornati indietro, i manifestanti hanno ripreso disobbedienza, quindi il possesso di alcune centinaia di strade, formano barricate sempre con tutto quello che incontrano e si lancia di tutto, come diceva Lorenzo. Io vedo distintamente i cellulari dei carabinieri, adesso hanno messo il muso verso questa via che comunque inizia a diventare veramente una via segmentata da almeno tre barriere formate con tutto quello che si trova, con i pali del senso unico, con i pali della sosta gettata, con i cassonetti sia del vetro che della plastica che della spazzatura. Adesso si torna ad avanzare, ma io vedo comunque i cellulari rimangono al loro posto, esattamente il posto dove è avvenuta la carica. Poliziotto perde la testa e rischia di ammazzare qualcuno. A bordo di uno degli autoblindi dei carabinieri, che era tempestato di pietre, questo il guidatore ha pensato bene a un certo punto di lanciare a massima velocità il furgone contro i cassonetti oltre i quali c'erano i manifestanti. Vestito, sei scansato. Fuori! pasti di fame di merda, no? It was right there. He came after somebody here. These guys are crazy.